1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Le 7:19 minuti e 40 secondi, eccoci qui nuovamente in diretta con 24 mattino. Qui è il momento dei giornali, della rassegna stampa, di raccontare. Ovviamente sui giornali, ve lo dico, non troverete granché di quello che sta succedendo a Istanbul, l'attentato all'aeroporto. Se vi siete svegliati da poco, è bene che lo sappiate. C'è stato un attentato, un comando di 3, forse 7 addirittura terroristi attorno a mezzanotte sono penetrati nell'aeroporto di Istanbul, si parla di almeno 30 morti, 150 feriti, purtroppo si teme che quindi il numero dei morti possa salire e secondo alcune indiscrezioni 7 gli attentatori, 1 arrestato, 3 in fuga soprattutto e 3 invece uccisi. Comunque i dettagli ve li darò più che altro dalle agenzie, più che dai giornali, perché i giornali sono andati in stampa quando già era tardi. Va bene, andiamo a leggerli. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Allora, mercoledì 29 giugno, Europa unita contro Londra, subito fuori. Questo è il titolo di apertura del Sole 24 Ore e il dopo Brexit ritorna un po' come un mantra ovunque. Per il Corriere della Sera, spinta di Draghi sulle banche, è ora di intervenire. Repubblica, evidentemente ho quella che in gergo si chiama la ribattuta, cioè la seconda edizione. Istanbul, terrore in aeroporto, kamikaze, spari tra la folla, Repubblica, dunque al titolo di prima pagina su quello che è successo a Istanbul, appunto. Per Libero, Brexit fa bene al portafogli. Mentre allarme banche, l'Italia chiede soldi all'Europa, è il titolo del giornale. Anche per Avvenire, l'Europa fretta, gelo con gli inglesi. La Stampa invece, il piano Draghi per salvare l'Europa. Anche il Messaggero o Istanbul strage all'aeroporto. Insomma, chi è riuscito l'ha messo come titolo di prima pagina, ovviamente, quello che è successo. Ma, come vedete, Istanbul, il terrorismo che ritorna a colpire, e ancora la Brexit, il timore delle banche, sono le prime due notizie sui giornali. Le approfondiremo tra poco. Prima voglio iniziare, come di consueto, con altre notizie che trovate, che trovo molto interessanti, come quelle sulla scuola. E ce ne sono due da segnalare, una da Repubblica e una dal Messaggero. Su Repubblica, pagina 21, Corrado Zunino racconta: eccola qui la rivolta che doveva arrivare prima o poi, io aspettavo solo i giorni, i professori contro la valutazione, contro i bonus. A loro stessi, sapete che da quest'anno si premia il miglior professore dandogli dei soldi che possono essere investiti per attività didattiche, peraltro. I professori no bonus, a tutti o a nessuno. La scuola del 68, quanti danni ha prodotto. Eccolo qui i riflessi e le conseguenze dell'egualitarismo comunista, diciamo così, nelle scuole. A tutti o a nessuno, ma cosa vuol dire? Perché non si può premiare uno meglio dell'altro? Qui la contestazione non è tanto il perché non si possa premiare, ma perché la metodologia, e su questo hanno pienamente ragione, è stata fatta alla carlona, si potrebbe dire, la metodologia di scelta di chi è meglio e chi è peggio non è uniforme. E allora Corrado Zunino racconta: hanno scelto di rifiutare il premio che certifica il loro merito. Nell'anno scolastico appena concluso sono stati buoni maestri, ottimi professori, migliori a scuola. Il premio previsto è in denaro, da 200 euro netti ai 1800 in un liceo a Torino. Ma la discrezionalità con cui le singole scuole italiane hanno distribuito il bonus è stata totale. E allora ecco l'elenco dei vari licei, scuole, dove ci sono rivolte contro questa discrezionalità. E allora, ripeto, su questo posso essere d'accordo, cioè se ci deve essere un metodo abbastanza uniforme, però l'idea che non si possa premiare chi è bravo, vale per gli insegnanti, come dovrebbe valere anche per gli studenti, non si può premiare il merito, questa è una cosa tutta italiana, di resistenze italiane. E a proposito di merito nella scuola, il Messaggero invece fa notare che da settembre ci sarà la pagella non tanto agli insegnanti, ma ai presidi o ai dirigenti di istituto, come si chiama, i presidi, insomma, così ci capiamo. Da settembre la pagella ai presidi con premi e punizioni. Esaminati nelle varie competenze, poi proprio come accade agli studenti, valutati con tanto di promozione, a cui farà seguito il premio, o bocciatura, che nei casi più gravi comporterà anche l'allontanamento dalla scuola. È questo che prevede la buona scuola, in realtà mettendo in atto una valutazione vecchia di 15 anni, racconta tutti i dettagli Lorena Lo Iacono, a pagina 14 del Messaggero. Insomma, altro che preside sceriffo, da settembre i dirigenti scolastici saranno giudicati ancora prima di giudicare i loro docenti. E dunque, rivoluzione per 7.000 dirigenti, il loro lavoro sarà giudicato da una commissione e si rischia, in caso di bocciatura, appunto il trasferimento, addirittura la rimozione. Questo può succedere. Però, cari ascoltatori, io devo saltare a raccontare questa storia appunto dolorosa che da due giorni è sui giornali, la storia di Salerno, o meglio della provincia di Salerno, di questa ragazza sedicenne che è stata violentata da un gruppo di 5 minorenni. Questa è ovviamente l'accusa, anche se gli avvocati dicono in realtà che non è stato così e che non è stata violenza, ma questa sedicenne, molto coraggiosa peraltro, perché ha affidato ai propri genitori, alle forze dell'ordine, se volete anche a Facebook, comunque gli sfoghi che vengono messi a pagina 2 del giorno da Nino Femiani a raccontare: non ho paura dei miei stupratori, l'urlo della sedicenne dopo l'orrore. È vero che lei denuncia sul web, ormai tutti sanno, sarò segnata a vita, ma meglio bandita che troia pentita. Questo scrive lei. E c'è questa cosa che mi ha sconvolto, lo devo dire. Sì, è vero, scattano sempre i riflessi di autodifesa quando ti dicono, immaginate, ti dicono, non so, tuo figlio è accusato di aver fatto questo insieme ad altri 4 ragazzi. Io posso capire, ma no, mio figlio, ma no, lui no. E c'è questa frase di questa zia di una dei ragazzi accusati di questo stupro. Vabbè, gli avvocati dicono sono bravi ragazzi, nessuno voleva fare del male a lei, questa è la strategia difensiva, diciamo, la posso anche capire. E poi la zia, ma come si fa a dire che sono mostri? Mio nipote è un bambino, adora solo la Juventus. Questa la zia di uno di coloro che sono accusati di stupro, violenza di gruppo nei confronti di questa sedicenne. Lo trovate sul Giorno con anche l'intervista poi alla sessuologa Graziottini, che dice: i giovani non accettano il rifiuto e quindi i divieti motivati servono a frenare l'aggressività, mentre loro spesso sono fuori controllo. Questo dice la sessuologa Graziottin. Ho visto che ho fatto un appello, spesso li faccio, devo fare un appello anche ai colleghi, l'ho fatto anche alle 6.30, ma voglio leggere un po' di stralci di questo articolo di Fabrizio Caccia invece sul Corriere della Sera, che riguarda Nichi Vendola. Nichi Vendola, sapete, ha fatto questa intervista a Repubblica di recente raccontando il figlio che è stato ottenuto con la maternità surrogata, l'utero in affitto, chiamatelo come volete. Vendola che è tornato in Italia. Vendola che però, racconta il Corriere, ora vuole stare un po' tranquillo con il compagno Ed e il loro figlioletto Tobi Antonio, nato il 27 febbraio a Sacramento in California. Ecco, allora, se vuole stare tranquillo, lasciamolo tranquillo. Nel senso che ho letto sul Corriere della Sera la seguente cronaca. Qui sono tutti pazzi per Tobi Antonio, cioè il figlio di Vendola. La zia Rosaria ieri gli ha grattugiato la prima fettina di mela. E mentre papà Nichi lo imboccava col cucchiaino, lo zio Vincenzo, marito di Rosaria, oculista, ruvo di Puglia, scattava foto a ripetizione con lo smartphone. E diceva: ma lo sa quanto pesa? In estasi. Pesa già 8 chili. E infatti lo teniamo in braccio un po' per uno, perché ci vuole forza. È un bambino alto, ha una fame da lupo, è un vero americano. Chissà quanti hamburger mangerà da grande. Ecco, faccio un appello proprio, no, basta. Forse in tutto questo la notizia c'è, cioè, a un certo punto Niki Vendola si è lasciato scappare con il fratello e con i parenti, ora per Tobia ci vorrebbe una sorellina. E quindi eccola qua, quell'idea di una sorellina, Vendola in Puglia con il figlio. L'ex governatore ha festeggiato i 4 mesi del bambino. Andiamo all'articolo che mi fa pinzare della giornata, che non è questo, ma è relativo sempre a bambini. Due bambini, due poveri bambini, se la cronaca è confermata, come racconta Repubblica, un bambino, non due bambini, un bambino, una bimba di 2 anni che ha una grande sfortuna avere i genitori che ha. In rianimazione per la dieta vegana. Bimba di 2 anni salvata dai medici. Succede a Genova e lo racconta a pagina 18 di Repubblica. Lo raccontano Michela Bompani e Marco Preve. Al Gaslini di Genova, in condizioni gravissime, è arrivata questa bimba di 2 anni portata dai genitori che hanno attraversato tutta la Liguria, perché da vegani hanno somministrato a questa bimba di 2 anni una dieta vegana. È arrivata con una carenza allarmante di vitamina B12, un peso nettamente sotto il percentile di riferimento, una scarsa reattività, movimenti rallentati, livello di emoglobina bassissimo, insomma un quadro clinico compatibile con gli effetti della dieta vegana. Ora sta meglio e i genitori, ed è il minimo, sono stati segnalati ai servizi sociali. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. In da chi lu palazzo c'è stata 3 cave carapazza, una cave carapazza qua, una cave carapazza là, una cave carapazza in mezzo. C'è bisogno che vi dica che dialetto è? Ciao Ale. No, lo so, però, caro ascoltatore, magari devi dirci però che vuol dire tutto ciò. Comunque, bello come sciogli lingua, grazie al 349-238-6666, mandateli sempre. E come dicevo, dell'attentato di Istanbul c'è poco sui giornali, si racconta appunto di questo attentato, di questo attacco ieri all'aeroporto, si parla di 3 assalitori, per esempio sul Corriere della Sera, in realtà la polizia dice potrebbero essere 7, un kamikaze che si fa esplodere, qui c'è il video che circola già nel momento anche dell'esplosione, lo trovate sui siti, e il dato che conta, e domani sui giornali vedremo tante analisi, oggi ovviamente seguite Radio 24 perché vi daremo in tempo reale tutti gli aggiornamenti, si parla di un nuovo attentato, diciamo nell'Europa, è vero, Istanbul non è Europa, lo so anch'io, eccetera, non è nell'Unione Europea il grande dibattito, la Turchia deve entrare o no, ma nel senso possiamo considerarla Europa, nel senso che Istanbul è a 2 passi da noi e è un crocevia anche come aeroporto per migliaia e migliaia, centinaia di migliaia di viaggiatori. Ecco, c'è un'analisi già interessante, ve la sottopongo. Antonio Ferrari sul Corriere della Sera scrive a pagina 11: il sultano Erdogan aveva appena deciso di cambiare rotta e ne paga il prezzo. Cioè, paradossalmente, va detto, scrive Ferrari, che nelle ultime settimane Erdogan, una volta tanto capace di ascoltare consiglieri più attrezzati e attenti, aveva compiuto 2 passi fondamentali, sapendo di essere indebolito nel paese, e ha deciso A, di riavvicinarsi a Israele dopo il duro attacco alla flottiglia pacifista turca che 6 anni fa voleva raggiungere Gaza e violarne il blocco, attacco che costò 9 morti, e poi in secondo luogo ha scritto una lettera di scuse al suo omologo russo Putin, scusandosi per l'abbattimento del caccia al confine con la Siria. Dunque il sultano fino a poco tempo fa era convinto di bastare a se stesso, pronto a sfidare perfino coloro che lo hanno sempre rispettato e sostenuto come gli alleati della NATO e prima di tutto gli Stati Uniti. E è proprio nel momento in cui evidentemente Erdogan era pronto a cambiare linea, ecco questo attentato. Ora vedremo gli effetti politici, gli effetti pratici purtroppo sono davanti agli occhi di tutti. Si parla appunto almeno di 30 morti. Il premier turco dice c'è l'impronta dell'ISIS, si vedrà anche questo. E comunque state con noi con Radio 24 perché vi diremo tutto. L'aeroporto di Istanbul, questa è altra informazione di servizio importante, visto che molti magari devono viaggiare, passarci, resterà chiuso credo fino alle 20 di oggi. Questo almeno sono le prime informazioni, e il governo turco ha vietato di diffondere immagini, certo alcune prese dai telefonini già circolano, ma chissà se ce ne saranno di ulteriori. Concentriamoci su altra grande notizia sui giornali, è sempre lo shock Brexit ovviamente. Ora che cosa succede? C'è l'ira dell'Europarlamento, come scrive Beda Romano a pagina 3 del Sole 24 Ore, perché Londra ora viene messa di fronte al fatto, subito fuori. E paradossalmente sapete che invece coloro che hanno voluto la Brexit e l'hanno votata ora dicono no, beh, ma c'è tempo, aspettiamo, vediamo, era un referendum consultivo, il governo dovrà chiedere e far partire la procedura lunga del trattato all'articolo 50. Insomma, Beda Romano racconta: mai sessione straordinaria del Parlamento è stata convocata con un preavviso così breve, i deputati hanno dibattuto del clamoroso esito del referendum britannico e nella sostanza l'Assemblea ha approvato una risoluzione non vincolante con la quale ha chiesto a Londra di notificare appena possibile la sua volontà di uscire dall'Unione Europea. Vedete la lenta, farraginosa burocrazia. Una risoluzione, ripeto, approvata non vincolante, quindi già non è vincolante, in cui si chiede a Londra di notificare appena possibile che cosa? La volontà di uscire. Vi rendete conto della lentezza delle procedure? E non le voglio distruggere, ma capite quanto tutto ciò porta al dibattito, ripeto, farraginoso. C'è stato anche il gelo di Juncker quando il leader di UKIP, Nigel Farage, grande sostenitore della Brexit, ha applaudito. Si è girato a lui, l'ha gelato, è l'ultima volta che lei applaude qui, anzi mi chiedo anche che ci faccia lei ancora nell'Europarlamento. E La Stampa, con Marco Zatterina, pagina 7, raggiunge Nigel Farage, leader UKIP, e glielo chiede: ma come mai lei siede ancora in Parlamento? Perché abbiamo vinto la guerra ma non c'è ancora la pace, è importante che noi si resti a vedere cosa succede, che tutto sia fatto a dovere. Chiede Farage Londra subito fuori dall'Unione Europea, questo almeno accontenta le richieste europee, oppure tradiremo 17 milioni di persone. Parla anche dell'Italia Farage, e per l'Italia mi spiace molto, perché mi spiace, l'Italia rischia, non c'è stata crescita per 15 anni, non è un paese prospero, così dice Farage di noi. E poi a Bruxelles c'è chi crede che Londra non chiederà mai di uscire dall'Unione Europea. Possibile? Chiede La Stampa. È uno scenario orribile. Così tradiremmo la fiducia di 17 milioni di persone. Ci saranno conseguenze politiche anche più gravi. Se il governo non chiederà l'uscita dalla Unione Europea, tradendo la fiducia degli elettori, le prossime elezioni saranno molto interessanti, così Nigel Farage, intervistato dalla Stampa. Insomma, bisognerà capire anche che succede alle banche. Noi avremo ospite il vice ministro dell'economia Zanetti alle 8:40 insieme ad Antonio Padellaro, e il dibattito rimane molto molto serrato. C'è su Repubblica Tonia Mastrobuoni, va a sondare gli umori di Ignazio Visco, e quindi Banca Italia. La Brexit è uno shock molto forte, bisogna fare attenzione che non si trasformi in una crisi sistemica, così il governatore di Banca Italia Visco, che non si nasconde e non nasconde la difficoltà della situazione scatenata dall'esito del referendum britannico. In un colloquio a margine del simposio annuale dei banchieri centrali in Portogallo, Visco ha tuttavia sottolineato che non esiste alcuna cifra, perché non sappiamo ancora se e quanto servirà per le banche italiane. Riferendosi ai numeri che vengono citati da mesi sulle sofferenze, dice: c'è un'esagerazione nella valutazione delle sofferenze bancarie. Si cita sempre il dato aggregato al lordo delle quote importanti che sono già state spesate di chi presenta garanzie solide, ma anche del fatto che molte sofferenze sono a carico di banche che non hanno problemi. In sostanza è sbagliato, secondo Visco, continuare a citare 340 miliardi di presunte sofferenze delle banche se su circa 140 di questi miliardi gli accantonamenti sono già avvenuti e se 2/3 dei crediti incagliati rimanenti sono in pancia banche grandi e solide. Questo Visco un po' per anche rasserenare, chissà se si riesce, la questione in Italia, la questione banche. A proposito di questione Italia, tra poco arriviamo alla politica, perché ci sono degli effetti interessanti a Brexit, almeno sul dibattito politico italiano attraverso i giornali. Alcune cosucce interessanti ve le riservo tra un po'. Prima però ci vuole il momento solenne di Mauro Meazza. Buongiorno Mauro. Buongiorno, ma questo tuo cambio di indirizzo nei miei confronti nel lancio è dovuto... E mi è arrivata una notifica. Alla solerzia del mio avvocato, quindi, sì, con il quale mi devo congratulare. Bene, me ne compiaccio, così come ti compiaccerai tu, speriamo tutti i nostri lettori, del fatto che da oggi abbiamo queste quattro pagine dedicate, diciamo, allo shock Brexit, ma in realtà... come sai, intitolate all'estate dell'incertezza, perché appunto parlavi ora di banche, ci sono stati gli scossoni sui mercati e poi ci sono tutte le incertezze appunto derivanti da questa uscita della Gran Bretagna dalla UE, anche se prima ti ascoltavo e mi par di capire che non, adesso dicono che se ne vanno, però devono ancora mettersi il cappotto, sì. Poi devono raccontare, ecco. Mentre noi siamo lì a accompagnare, prego, vai, fuori. Più o meno sembra una cosa così, va bene. Nel frattempo, tu leggi, innanzitutto guarda, leggi Moria Longo, che ti spiega un sacco di cose oggi, proprio nella prima uscita di questo inserto, che proseguirà poi anche nei giorni successivi, l'estate dell'incertezza, perché... effettivamente ci sono delle cose che sono incerte, le borse, ma non solo, i mutui, e poi che si fa con Erasmus, che si fa con coloro che sono a lavorare a Londra o ci vogliono andare, così via. Tutto questo e molto altro nelle pagine oggi centrali del Sole 24 Ore, ma si parla anche di pensioni, sai che ieri si è parlato di pensioni, sì. No tax area e poi l'APE. Il progetto appunto di anticipo pensionistico. Piano piano prende forma il tutto, ne vedremo gli effetti, come sai, nella legge di stabilità in autunno, però già oggi trovi sul Sole 24 Ore una serie di ipotesi di intervento. Tra l'altro, sai che dovevamo riordinare la forestale, era scritto nella riforma Madia, però ecco, ci prendiamo un momentino di tempo, perché slitta di 6 mesi il riordino, andiamo a febbraio dell'anno prossimo, non facciamo le cose con fretta, diciamo anche noi come gli inglesi ci prendiamo il nostro tempo sul riordino della forestale. Intanto è stato data, oggi dovrebbe essere il voto finale, è stata data la fiducia sul decreto legge banche, quello che tra l'altro contiene i rimborsi per gli obbligazionisti, come sai, coinvolti nel fallimento delle quattro banche note. Invece ti voglio ricordare, vorrei che tu te lo scordassi, sì. Ho preso nota in agenda che vediamo. Domani scade il termine per le istanze del patent box. Domani, segnate, domani. Fai il sarcastico, ma no, guarda che è uno sconto, è uno dei pochi sconti, specialmente in materia di reddito d'impresa, e quindi è molto importante. Ne parliamo ovviamente nelle pagine di, indovina un po'. Norme e tributi. Bravissimo. Che tu leggerai come sempre, bravissimo, come sempre devi fare, anche perché così potresti scoprire come potrebbero essere assegnati, come possono essere assegnati i premi di risultato, naturalmente bisognerebbe ottenere dei risultati, caro Alessandro, sì. In benefit aziendali, quindi potresti, che so, aumentare il tuo versamento alla previdenza complementare o anche ottenere altri tipi di benefit, ma tutto questo nelle pagine di norme e tributi. Certo Alessandro, bisognerebbe tu portarsi dei risultati, ecco come dire, ma questo vabbè, lo vedremo poi in separata sede. Ti voglio ricordare infine che di Brexit ci occuperemo anche a Radio 24 più tardi, perché parleremo proprio di Erasmus, lo so perché l'ho letto sul Sole 24 Ore di oggi, ma dove ho letto anche che oggi, essendo martedì, è in edicola con il Sole 24 Ore, vediamo se te lo ricordi. Oggi è mercoledì, mercoledì. Scusami, hai ragione, oggi è mercoledì, ma va bene lo stesso. No, ma va bene. Va bene lo stesso, io sono confuso anch'io dalla Brexit, sono incerto. sa cosa hai segno, dicola con il sole 24. Cosa c'è? Cosa c'è? Non lo sai. L'economia per la famiglia, l'economia spiegata in parole semplici. Va bene, mi hai mandato completamente in confusione, oramai sono incerto anche sul calendario, vado a comprarmene uno nuovo e soprattutto a leggere norme e tributi, una certezza. E per tutti quanti, traffico! Milan, c'è una macina, c'è manca una macina, ne si dialetto coratino, Francesco, Bari. Grande Francesco da Bari. Allora, dicevo, il riflesso sulla politica del dibattito della Brexit. Abbiamo detto che intanto è scomparso tutto il dibattito nel PD, il dibattito politico, perché le pagine sono quelle, sono occupate da cose ben più serie, e questo è un bene. Ma è scomparso anche tutti quei retroscena. Questo è uno storytelling diverso. Si diceva Renzi che punta a un nuovo profilo, più umile, più basso, più compassato. E infatti, ricordate tutti i retroscena, il celebre retroscena di Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera? Oggi, per esempio, per alcuni giorni è scomparso, oggi è un trafiletto a bordo pagina, retroscena, no? Derubricato lì. E poi mi chiedevo anche, ma Matteo risponde su Facebook, dove è scomparso? Da un mese che non si vede più, prima in prima serata, al pomeriggio, alla sera, adesso non c'è più, Matteo risponde. Comunque, il retroscenino si dovrebbe chiamare, trafilettino sul Corriere della Sera, Renzi che dice ma perché dovrei cambiare ai suoi collaboratori la linea sul referendum, non farei nemmeno morto una cosa del genere, cioè cambiare e dire anche se perdo rimango. Acquista più spazio Berlusconi invece che ora, racconta anche il Corriere della Sera dopo le anticipazioni degli altri giornali, prepara il rientro e prepara il cambio di partito. Berlusconi però che non conterà su Paolo Del Debbio, perché ancora sul Giorno Paolo Del Debbio dice, intervistato da Elena Polidori, congresso per cacciare i soliti noti, io frontman del partito no, preferisco le retrovie, a me piace stare back, non in front. Dunque, come si dice in un noto programma, ringrazio il notaio, cioè Berlusconi, di aver pensato a me, ma vado avanti a fare il mio lavoro. E dice comunque Del Debbio sul partito, ho trovato inelegante, maleducato, irrispettoso aver convocato un comitato di presidenza di Forza Italia per scannarsi su questo benedetto cerchio magico nel giorno in cui si operava Berlusconi. Davvero da non crederci. E se questo è l'aperitivo che serve l'attuale classe dirigente del partito, allora non c'è da aspettarsi nulla di buono per il futuro. Ah, ma lei farebbe Piazza Pulita dunque? Piazza Pulita no, perché è il programma concorrente al mio di lunedì. Ma diciamo che mi piacerebbe si ripartisse da un ragionamento politico serio. Questo Paolo Del Debbio, con la sua anche solita e consueta ironia sul Giorno. La notizia politica più interessante rischia di essere questa di Del Debbio e anche il programma Zero Pancetta. Dice non mi sono ammattito. Secondo Libero, il vice direttore Franco Becchis, Renzi ha dato il via all'operazione Zero Pancetta. Ogni giorno si sveglia all'alba, quindi magari all'ascolto in questo momento, sta andando alla caserma Macao a Roma, dove due istruttori militari lo sottopongono all'esercizio fisico, soprattutto nuoto. È partito con 10 vasche, ora è già a 30-40 vasche a mattina. A meglio tre mattine a settimana, per cercare di riprendere un po' la forma e abbattere invece la forma rotondetta. Questo almeno secondo Libero, piscina, palestra e corsa, si allena con due istruttori militari, Renzi ha dato il via all'operazione Zero Pancetta. Rimango invece basito nel leggere notizie di cronaca, sono tante, continue, di donne che vengono uccise da uomini. L'ultimo caso succede a Modena, dove la uccide e mette il corpo nel frigorifero. Oltre all'orrore, insomma, dei dettagli che vi risparmio, ma che trovate per la morte e l'uccisione di Bernadette Fella, maestra d'asilo uccisa dal compagno Armando Canò, c'è da dire che è il solito cliché. Questa donna aveva denunciato più volte l'uomo. Lo aveva denunciato più volte ed è una cosa che ricorre purtroppo troppo spesso. perché si viene, si dice poi denunciate, denunciate, io sono il primo a dire denunciate. Ma guardate che la favola secondo cui denunciate è tutto a posto, purtroppo non è così, le leggi, anche qui farraginose, le forze dell'ordine che non possono fare nulla, allargano le braccia, dicono e purtroppo sono ancora una realtà. Strangolata e chiusa in frigo, la pestava, nessuno si è mosso. L'ira dei familiari lo aveva denunciato, ora lui ha confessato. Guardate d'altronde, sempre su Libero, leggo a pagina 14. È un verdetto a Milano, il molestatore di vicine non deve cambiare casa. Succede a Milano, un egiziano palpeggia una ragazza di 25 anni, il giudice lo lascia andare a patto che non la veda più, ma è il vicino di Pianerottolo! Capite l'assurdità della legge burocratica che dice basta che non la veda più, è il vicino di casa. Voi immaginate quella ragazza molestata, ha preso la forza, è andata a denunciare, il giudice ha detto non la veda più, si deve buttare dalla finestra, calarsi con la corda, cambiare casa. Ecco, questa è l'assurdità delle burocrazie della legge che portano poi a questi risultati. Va bene, mi sono calmato. D'altronde l'aria condizionata è accesa a Lorenzo Nespoli, è tutto a posto. Qua in studio no, fa un po' caldo. E infatti la carta costa va a una pagina, non mezza, non un quarto di pagina, una pagina intera del Corriere della Sera, il Corrierone della Sera, per raccontare la sfida tra tribù sull'aria condizionata, un gran classico d'estate, come le ciliegie che maturano di maggio, come il solstizio d'estate, come non ci sono più le vecchie le stagioni, le mezze stagioni. Obama vuole il caldo, Zuckerberg il gelo, la suocera il caldo, il genero il gelo, il marito il caldo, accendi spegni, accendi spegni, accendi spegni, accendi spegni. Ma chi se ne frega!